La Rosa Purpurea di Franco D'Assisti. Ben ritrovati amici da Franco D'Assisti, questa è La Rosa Purpurea, il settimanale di cinema di Radio 24. Rulli di tamburo per quanto riguarda il finale del Festival di Cannes, ormai vicino al palmarès, è questione di poche ore conosceremo il nome della Palma d'Oro di questa edizione, ma come sempre il cinema da Cannes rimbalza anche già nelle sale italiane, è successo già con qualche film settimana scorsa, succede anche questa settimana, a cominciare da un film che riporta sul grande schermo italiano un attore molto amato dagli adolescenti di 4-5 anni fa per la saga di Twilight, Robert Pattinson, che però sta cercando uno sdoganamento attoriale e lo fa soprattutto attraverso quello che sembra essere diventato un po' il suo pigmalione, ovvero il regista David Cronenberg, che per la seconda volta lo sceglie per un suo film che si intitola Maps to the Star. E allora noi andiamo subito a sentire una clip tratta dal trailer e poi ne parliamo con il nostro inviato a Cannes, Boris Sollazzo. Havana, tesoro, non so se hai già letto la notizia, ma hanno annunciato che Damien ha scelto Asita. Conosco e rispetto i motivi per cui era così importante per te, ma... Come mai a Los Angeles? Vengo a trovare la famiglia. Nell'ultima stagione di Praise the Lord guadagnavo $300,000 a settimana. Avevo solo 9 anni. Quanto offrono? 5 milioni. Respira. Ho assunto una ragazza, è incredibile. Cosa è incredibile? Non è esattamente un lavoro molto glamour. Non sono abituata al glamour. Ha il volto sfigurato, è rimasta ustionata in un incendio. Sai com'è morta mia madre? No, in un incendio. Boris, ben ritrovato da Cannes. Facendo una battuta e parafrasando il titolo di Maps to the Star, dobbiamo dire che la volta precedente con Pattinson in Cosmopolis la mappa l'avevano data agli spettatori per capire cosa stesse succedendo nel film, che peraltro è un film che rimane a livello visivo, ma insomma che era piuttosto tormentato e difficoltoso. Qui invece come vanno le cose? C'è qualche appiglio in più? Ma c'è qualche appiglio in più sicuramente, anzi forse ce ne sono troppi, ci sono troppi punti sulla mappa e troppe indicazioni per questi personaggi tutti sopra le righe. Volendo fare un'altra battuta, Robert Pattinson prima viaggiava nel retro della limousine, insomma da privilegiato, e adesso invece fa l'autista e quindi insomma è stato degradato, probabilmente perché nonostante Cronenberg un granché non lo sembra mai, non dà mai spessore e forza al suo personaggio. E il problema di Maps to the Stars è che non ha, secondo me, lo spessore narrativo e visivo di Cosmopolis, che pure aveva molti problemi, e semplifica quello che è l'universo cronenbergiano, che è un universo psicotico, sessuomane in qualche modo, che va a pescare nelle contraddizioni della famiglia, dei sentimenti, di tutto ciò che è follia nell'essere umano. Sembra pescare nel suo universo e nell'universo di altri registi simili a lui, facendo però una confusione e lasciandosi andare a tutta una serie di derive senili nei vezzi registici, anche nel modo in cui tratta e maltratta gli attori, che alla fine non rendono minimamente affascinante, a mio parere, Maps to the Stars. Lo dico con dolore perché Cronenberg, confesso, è uno dei miei registi preferiti. E questo per quanto riguarda allora Maps to the Star. Effettivamente un po' di perplessità si è letta anche dalle recensioni che sono arrivate dal Festival di Cannes. Il film è però nelle sale cinematografiche italiane e ha, come dire, anche un cast che può attirare comunque il grande pubblico in questo primo weekend di uscita, appunto Robert Pattinson, Julianne Moore, Mia Wasikowska, John Cusack. Mia Wasikowska tra l'altro sta lavorando tantissimo, o almeno diciamo che la stagionalità delle uscite italiane la sta mettendo in sala in diversi film, e anche in quello bellissimo di Jarmusch, vampiresco, ecco che ritorna anche il tema dei vampiri sottratto per questa volta a Robert Pattinson. Andiamo a giocare insieme adesso con la prima parte, la prima traccia che vi facciamo ascoltare di un film misterioso che dovete indovinare per provare a vincere la nuova edizione in Blu-ray di questo film. Come canta bene, signora Carla. Oh no, sono una dilettante. E quant'è carina. Da tanto tempo desideravo conoscere. Anch'io. Beh, insomma, qui siamo dalle parti dell'infinito, potremmo dire. La Rosa Purpurea, chiocciola, radio24.it, titolo del film, se l'avete indovinato, vostro indirizzo privato per ricevere eventualmente, in caso siate fra i due vincitori, il Blu-ray di questo film, di cui più tardi vi faremo ascoltare un'altra traccia. Torniamo al Festival di Cannes, è passato nei primi giorni di festival con un discreto successo il film italiano che rappresenta l'Italia nella corsa alla Palma d'Oro, ovvero Le Meraviglie di Alice Rohrwacher. Sentiamo. Come vi chiamate? Caterina. Giasmina. Lola. Babbo, partecipiamo? A cosa? Alla selezione, al Paese delle Meraviglie. Ecco, ci manca questa stronzata. Babbo, ma fidati, mamma! La mamma pensa come me. Io non so neanche di che state a parlare. Guarda. Che pensi? Vuole fare la contadina? Perché no? Vuoi costruire un muro intorno a lei? È un amore eterno, se non è amore me ne andrò all'inferno. Ma quando ci sorprenderà l'inverno, questo amore sarà già un incendio. Lo grido 100.000 volte. Allora, sulle note della canzone scelta anche a dare freschezza a questo trailer delle Meraviglie, Boris, come è andata questa prova, come dire, di consacrazione, se vogliamo, di Alice Rohrwacher come regista? Allora, è andata peggio dell'esordio. Corpo Celeste, secondo me, era uno degli esordi più folgoranti e belli del panorama italiano degli ultimi 10-15 anni. Con Le Meraviglie c'è da dire che noi confermiamo il talento di Alice Rohrwacher, si capisce che è una regista che ci dirà tanto e molto per i prossimi anni e che insomma non sarà una delle tante. Allo stesso tempo però c'è il problema che spesso capita in un'opera seconda dopo un bell'esordio, che si vuole dire troppo, lo si vuole dire forse troppo bene, e quindi il film passa da bellissime intuizioni, come per esempio il protagonista maschile, che è quest'uomo ingabbiato dalla sua incapacità di comunicare, quindi ha tante belle idee, ha una sensibilità fortissima che invece poi si traducono in una ruvidità che il linguaggio gli consegna, e anche il gioco che si fa per ben tre volte con la canzone di Ambra, la vecchia canzone di Ambra, insomma una canzone pop degli anni 90, fa parte di queste belle intuizioni. Il film però si perde spesso, si disperde. L'impressione è che non abbia molta fiducia in se stessa, ed è un peccato, perché comunque Alba Rohrwacher secondo me dà una bella prova, gli attori sono ben scelti, l'argomento è molto interessante. Qui a Cannes ha avuto reazioni contrastanti, gli italiani lo hanno amato di più, i francesi lo hanno distrutto con soprattutto nei voti dati a Hollywood Reporter, gli altri stranieri insomma sono dubbiosi. Volendo appunto riassumere, un film non del tutto riuscito, ma che conferma il talento di Alice Rohrwacher. Si dice spesso che il film più difficile per un regista è il secondo, no? Perché il primo film, la critica è anche disponibile magari a scusarti qualcosa, e poi se va bene addirittura ad esaltarti. Il secondo è sempre quello più difficile, però insomma ci piace l'idea che hai detto all'inizio, Boris, quella che comunque si intravede ancora questo talento di Alice Rohrwacher, che sicuramente potrà andare a frutto anche nelle prossime prove. Ricordiamo comunque Le Meraviglie è nei cinema italiani, andatelo a vedere, perché chiaramente vale sempre la pena di farsi un'idea personale. La Rosa Purpurea. Professore, non ti sarà facile credermi. Mi hanno mandato qui per te dal futuro, fra 50 anni. Puoi ripetermelo, per favore? No, ascoltami. All'inizio, le sentinelle prendevano di mira solo i mutanti. Poi hanno cominciato a colpire tutti. Ho fatto tanta strada, devi guidarci, riunirci, tutti gli X-Men. Devi aiutarci. Di a chi ti ha mandato, che ho molto da fare. Chi mi ha mandato, sei tu. E allora, da questa traccia che vi abbiamo fatto ascoltare da X-Men Giorni di un futuro passato, c'è già un po' il senso di questa nuovo reboot, diciamo così, degli X-Men. Non è un sequel, è un altro film dove gli X-Men dovranno combattere una battaglia per la sopravvivenza che si sposta su due assi temporali, e quindi sostanzialmente dovranno unire le forze degli X-Men di oggi con i loro stessi di ieri, e quindi c'è un salto temporale continuo che è un po' la matrice, che permette anche di mettere insieme tutto il cast degli X-Men l'inizio e degli X-Men, diciamo, saga tradizionale. Insomma, gli attori sono da Michael Fassbender a Jennifer Lawrence, da Ian McKellen a James McAvoy, eccetera, eccetera, eccetera. È un cast che ci vorrebbero due locandine per raccontare tutto. Boris, non abbiamo dubbi sul fatto che sia il campione di incasso lunedì mattina, senza minimo paragone, ma mi sembra che abbia avuto, almeno per il momento, anche un discreto gradimento sia di pubblico che di critica. Ma la contraddizione semantica che c'è nel titolo, secondo me, rappresenta benissimo la fotografia di che cos'è questo film. Nell'ambito della saga, nell'ambito dell'universo Marvel, e anche come film, nel senso che è un film che, per esempio, ha dei momenti ottimi, che sono tutti quelli nel passato, anche se vedere Jennifer Lawrence negli anni 70 ti getta in American Hustle e devi ricordarti che non è quel film, e allo stesso tempo è totalmente poco credibile e anche poco interessante invece tutto il piano temporale delle sentinelle, tutto il piano temporale del futuro. Molto interessante quindi il lavoro sull'epoca, molto interessante il fatto che chiaramente il passato è molto più legato a tutto questo universo Marvel, molto interessante anche che Bryan Singer, che non è al massimo della forma, comunque ci sia e metta il suo tocco magico. X-Men ha dato le cose migliori all'universo Marvel e ha dato anche le cose peggiori. Doveva riprendersi perché si veniva dalle cose peggiori, secondo me ce l'ha fatta, nel senso che alla fine il film, che ha troppo dentro e che rischia di esagerare ad ogni passo, però porta a casa sia il divertimento e l'intrattenimento delle persone, sia uno spessore che X-Men per primo ci aveva regalato nell'ambito del cinefumetto, volendolo chiamare così. Quindi, diciamo, lo promuoviamo senza grandissimo entusiasmo, ma con la speranza che questa saga forse possa avere un futuro un po' più interessante. Sei bestia? Non so di che cosa lei parli. Sei forte per essere uno scricciolo. Le ho detto di andarsene. Tu e io saremo grandi amici. Ma ancora non lo sai. Ci serve Mistica. Perché? Sei una bastarda. Di pure quello che pensi. Dov'è Magneto? Quell'uomo è un mostro. È rinchiuso in un edificio inaccessibile, sotto la più stretta sorveglianza del pianeta. Conosco quello giusto. Adesso sarà un ragazzo. Un'evasione? È illegale, sapete? Ti devono prendere. E allora X-Men, Giorni di un futuro passato, avete sentito alcune scene dal reclutamento che Hugh Jackman effettua appunto nel passato, quando gli X-Men erano tanto tanto giovani. Giochiamo ancora insieme con la seconda traccia del nostro capolavoro misterioso di oggi. Tu sei la mamma, vero? Quante lacrime, figlio mio, quante lacrime. Papà, aspetta, non andare via. Abbiamo parlato così poco tra noi. Scommetto che l'anagrafe dirà che i nostri ascoltatori che oggi giocheranno con questo game non saranno proprio giovanissimi, diciamo così, però o saranno molto cinefili. E allora la rosa purpure a @radio24.it è l'indirizzo a cui scrivere il titolo del film e il vostro indirizzo per provare a vincere una delle due copie in Blu-ray di questa nuova edizione di questo capolavoro. Io vi ricordo anche la nostra pagina Facebook, la rosa purpure a Radio 24. Cliccate mi piace e unitevi alla nostra comunità. A questo punto andiamo ad analizzare l'ultimo film che abbiamo scelto per questa settimana. È un film che rimbalza al cinema italiano adesso, dopo praticamente mesi, almeno 8 mesi, dalla presentazione alla Mostra del Cinema di Venezia nel settembre scorso. Però è stato uno dei più bei film, almeno personalmente, che ho visto a Venezia. Lo ha diretto Amos Gitai, si intitola Ana Arabia. Che fai tu? Ma dentro? I suoni e le musiche, le voci di una comunità arabo-palestinese, una giovane giornalista, la straordinaria Yuval Sharf, va in questo quartiere tra Jaffa e Bat Yam in cui israeli e palestinesi convivono pacificamente. Ci va perché ha sentito la storia di una donna sopravvissuta ad Auschwitz che aveva poi sposato un arabo, aveva fatto un sacco di figli e un sacco di nipoti erano arrivati proprio in quel posto. A questo punto la giornalista arriva in questo villaggio, incontra il marito Youssef e da lui raccoglie il racconto di una vita, ma anche della possibilità di una convivenza, quella appunto all'interno di questo villaggio. Il bello di questo film, oltre alla recitazione di tutti gli attori, oltre alla situazione, allo scoprire questo quartiere che verrà svelato da una bellissima dolly che si alza, una telecamera sulla gru che si alza in alto alla fine del film, ebbene lo straordinario a livello registico è che tutto questo avviene in un unico piano sequenza, ovvero Amos Gitai non stacca mai la macchina da presa, con la Steadicam corre dentro le case, dentro questi piccoli alloggi di questo villaggio che sembra quasi separato dal mondo, segue lo sguardo di questa ragazza che arriva un po' tracotante per fare la giornalista e nel giro degli 84 minuti del film diventerà quasi una di loro. È un film totalmente in continuità con quello che è il cinema di Amos Gitai, che vuole raccontare la possibilità di una convivenza ma anche i perché di un odio, quello fra israeliani e palestinesi. Lo fa anche questa volta andando un po' più nel vivo, nel personale dei suoi protagonisti. Boris, un film incantevole questo di Amos Gitai, che ha veramente stregato Venezia e che esce questa settimana a Roma, ma lo ricordo, dalla prossima settimana in tutta Italia. Meraviglioso, assolutamente meraviglioso. Io amo Amos Gitai perché ha la capacità di raccontare uno dei conflitti più feroci, difficili e anche ingiusti con una poesia straordinaria. Qui tra l'altro fa qualcosa che secondo me ha efficacia, cioè un piano sequenza lungo 84 minuti, una prova registica difficilissima, perché è l'unico modo per raccontare quella storia, è l'unico modo per renderla necessaria, immediata, per tirar dentro lo spettatore e farlo sentire parte di quel quartiere, proprio attraverso quella giornalista che all'inizio sembra antipatica e snob e poi diventerà insomma il medium empatico con cui entrare in contatto con questa realtà. È bello anche perché secondo me si iscrive nel racconto del cinema di Gitai, nello stesso posto in cui c'è il corto di 11 settembre, 11 minuti, anche lì in piano sequenza, e quella lunghissima scena iniziale con Natalie Portman in Frison non era stato un grande film, ma quella era una grande scena, ed è la dimostrazione forse che tutte le contraddizioni di quel conflitto che Amos Gitai ha sempre raccontato con molta poesia possono essere raccontati solo in un'unità di tempo e in un'unità di luogo, altrimenti arriva la mediazione, arriva l'ipocrisia e non se ne riesce più a parlare. Quando parli di umanità devi guardare in faccia le persone, come fa Amos Gitai, devi parlarci. Non puoi prenderti pausa, non puoi montare. E allora, ricordiamo Ana Arabia, assolutamente da vedere, Cinema Nuovo Aquila a Roma questa settimana e dalla prossima in tutta Italia. Grazie Boris e appuntamento fra 7 giorni. Alla prossima settimana e buon cinema. E allora siamo arrivati al momento di parlare di cinema da vedere in casa. Io voglio prima fare una piccola rettifica di nazionalità. Settimana scorsa avevamo parlato di Padre Vostro, il film di Vinko Bresan, che avevamo anche, come dire, accompagnato con una critica positiva, però avevamo detto che era un film di produzione italiana. In realtà è di produzione croata, anche se distribuito ovviamente in Italia dalle officine UBU. Giusto dare ai croati quel che è dei croati, parliamo invece appunto, dicevamo, di film da vedere in casa, cominciando con il risolvere il nostro quiz della settimana scorsa. Bisogna sfregare, la barba inzuppare, nell'acqua sguazzare. Non credi che l'umido ci ammazzerà? No, non vi eccitate. Ecco qua. Coraggio ora voi, provate con me. Vedrete che poi difficile non è. Torna in un video Biancaneve e i sette nani, il disneyano Biancaneve in Blu-ray con una nuova uscita. Questo era il film della scorsa settimana. I vincitori sono Paolo Bettello di Spresiano, provincia di Treviso, e Marina Bertuzzi di Piacenza. Saranno loro a ricevere la copia in Blu-ray di Biancaneve, che ci facciamo raccontare dagli amici di Film TV. Con noi Giulio San Giorgio. Ciao Giulio. Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori. Sì, riedizione in Blu-ray per il primissimo classico animato della Disney, questa volta in un'edizione a un solo disco. Il primo lungometraggio d'animazione della casa di Topolino, fiaba che lega insieme dramma, riso, canto in un mix che è stato a dir poco seminale. con questo Blu-ray si gode pienamente l'animazione come era una volta, avanguardia in semi-industriale artigianale fatta da 32 animatori e 2 milioni di disegni, extra ricchissimi interattivi, un dietro le quinte, scene pensate ma eliminate, un commento audio niente di meno che di Walt Disney. E insomma, non c'è, se vogliamo, niente di nuovo per quanto riguarda la parte contenutistica speciale, ma è una nuova edizione a disco singolo, a cercare chiaramente un mercato più ampio per il Biancaneve disneyano. E allora andiamo invece, Giulio, a dare un'occhiata a quelli che saranno i film della prossima settimana in televisione. Abbiamo scelto una prima assoluta in chiaro, che è quella di un film veramente molto molto divertente, forse uno dei più riusciti nella sua formula anche frizzante, molto easy, del Woody Allen degli ultimi anni. Stiamo parlando di Midnight in Paris. Domenica 25 su Rete 4 in prima serata, in prima visione, Midnight in Paris, il giro dell'Europa di Woody Allen, turista di lusso tra un film, tra una film commission e l'altra, tra una capitale e l'altra, giunge alla tappa francese nella culla culturale dell'avanguardia del primo Novecento, Parigi. Tanto che Gil, Owen Wilson, il protagonista, sceneggiatore americano frustrato in vacanza alla Ville Lumière, finisce per essere catapultato nel passato, in mezzanotte come nelle fiabe. Qui incontra Hemingway, Picasso, Francis Scott Fitzgerald, Buñuel, in un film che ci ricorda le illusioni, di un film che ci sta ovviamente molto a cuore, ovvero La Rosa Purpurea del Cairo. E allora, questo è Midnight in Paris, domenica 25 maggio alle 21:15 su Rete 4 in prima TV in chiaro. Grazie Giulio, un saluto agli amici di Film TV. Ciao Franco, alla prossima. E siamo arrivati alla fine così della nostra trasmissione, non mi resta che il tempo di salutarvi, darvi appuntamento a sabato prossimo alle 16 qui su Radio 24 per La Rosa Purpurea, per raccontarvi tutto il cinema che c'è.